all'ospizio, la città del vizio, portami all'ospizio, la città del vizio, portami all'ospizio, la città del vizio, portami all'ospizio, la città del vizio, voglio andare all'ospizio, voglio andare all'ospizio. Musica, mi spieghi? È una musica che si bala così. Tu streghetta, chetta, chetta. Mamma mia. Figurati. C'ho l'erma, zoppico. Piena rotta, l'altra ce la lasciate. A far ballar, a far ballar, a far ballar, a far ballar. Dai, portami da spizzico.